L'evasione dell'IVA in Italia vale quasi 29 miliardi di euro all'anno. Nel 2010 sono stati raccolti dall'imposta sul valore aggiunto oltre 101 miliardi di euro, ma avrebbero potuto essere oltre 130 se i soliti furbetti non ne avessero nascosta una grossa fetta, il 22%, una percentuale di nero che è inferiore solo a Grecia, Slovacchia e Ungheria, dove però l'aliquota è al 25%. Il risultato è che l'Italia è al quart'ultimo posto in Europa nella classifica degli onesti e al penultimo considerando non le percentuali ma le cifre assolute. I dati risultano da un rapporto realizzato da PricewaterhouseCoopers per Bruxelles. Insomma, siamo ben lontani dal resto d'Europa, visto che la percentuale media dei 27 paesi è del 12%. Fra i virtuosi la Spagna, dove il nero è solo il 2% del totale, o la vicina Slovenia e il piccolo Portogallo, dove si ferma il 4%, ma anche la Francia, dove l'IVA evasa è appena il 7% del totale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.